America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Un po' di tranquillità sui mercati, in realtà Wall Street ha avuto un piccolo aumento ieri, poi è stata un po' piatta. Secondo me la crisi greca continuerà a permeare la psicologia dei mercati da qui ai prossimi giorni, forse alle prossime settimane. Ma la notizia che ieri ha colpito Wall Street è stata l'ennesima classifica, direi la più completa finora, dei salari degli amministratori delegati delle grandi aziende americane. Un'analisi di 350 società fra le più grandi degli Stati Uniti, ebbene gli stipendi sono tornati ad essere favolosi, perché il numero uno, Philip Doman, amministratore delegato di Via, come un gigante dei media, ebbene ha portato a casa uno stipendio complessivo di 84,3 milioni di dollari per il 2010, il doppio rispetto al 2009. Mediamente gli stipendi sono stati di 9,3 milioni di dollari per questi 350 amministratori delegati, molto dovuto all'aumento dei bonus, più 19%, e dunque con un aumento medio dell'11%. Queste cifre ci ripropongono un problema: i have e i have not, quelli che hanno e quelli che non hanno, l'America dei ricchi, l'America dei meno ricchi o dei poveri, soprattutto l'America dei disoccupati, perché se le aziende fanno profitti e guadagnano bene e se i capi azienda guadagnano benissimo, resta un numero elevatissimo di disoccupati in America, oltre 7 milioni, l'ultimo dato ci ha dato un aumento mensile di 250 mila posti di lavori netti, sicuramente un buon numero, ma non quei tassi di 400-500 mila nuovi occupati di cui ha bisogno l'America per recuperare tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro durante la crisi. Even as we've added more than 2 million new private sector jobs over the past 14 months, I still meet and hear from Americans struggling to get out of their own personal recessions. A lot of folks out there are still looking for work. Questo è uno dei problemi centrali, ovviamente, con cui si deve confrontare Barack Obama. Il presidente americano, direi, è ormai entrato nella mitologia dei grandi leader del paese, soprattutto con la grande operazione che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden. I suoi indici di gradimento sono balzati di 11 punti, addirittura al di sopra dei 50, il 53% degli americani lo gradisce. Sembra avere la strada spianata per le elezioni del 2012 e dunque vorrei dedicare questa puntata proprio a Barack Obama, alla sua leadership, alle sue prospettive, e ho con me ai microfoni di America 24 Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi, autori di un libro proprio sul presidente americano uscito in Italia in queste settimane, libro di grande successo, Obama dimezzato. Buongiorno Maria Teresa, buongiorno Glauco. Buongiorno. Eccoci, allora Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi sono dei colleghi, lavorano qui da New York, Maria Teresa per il Corriere della Sera, Glauco Maggi per La Stampa. E dunque la prima domanda è, il vostro titolo è evidente, Obama dimezzato. C'è un approccio critico o comunque più realistico rispetto a quello che sembrava essere il mito di Barack Obama durante la grande campagna elettorale del 2008? Ecco, dopo il successo dell'operazione Osama Bin Laden, è tornato questo mito secondo voi? Sicuramente dopo l'operazione contro Osama il tasso di favore per Obama è risalito di una decina di punti percentuali. Prima era dimezzato, dal 70% di favore all'inizio del 2009 era sceso sotto il 50%, ma ora la sua politica contro i terroristi e sul piano internazionale sicuramente ha fatto risalire le sue quotazioni su tutto, ma non sull'economia. Sull'economia soltanto il 37% secondo gli ultimi sondaggi del New York Times approva la sua gestione della crisi, e quindi questo rimane il suo punto più vulnerabile da qui alle elezioni. Ecco Glauco, sull'economia, stiamo un momento fermi sull'economia perché in effetti è il punto più debole. Si aprono delle sfide per Obama delicate, soprattutto sul fronte del bilancio. C'è un disavanzo pubblico fortissimo, qualcuno dice che gli Stati Uniti sono un po' come la Grecia. Ecco, secondo te come affronterà Obama questa sfida, la sfida interna, la più importante? La grande scommessa è come si collocherà Obama tra le tendenze che sono dichiaratamente divaricate. Ecco, lui ha un grosso spazio, deve saper dire di no sia ai suoi compagni di partito democratici in alcune questioni, e anche deve convincere i repubblicani a non essere intransigenti come vorrebbero i tipi. E quindi l'obiettivo qual è secondo te? Ci sarà una diminuzione reale? Perché abbiamo visto che Standard & Poor's addirittura ha minacciato di diminuire il rischio americano. Ci deve essere assolutamente l'accordo sul taglio di bilancio, sul tetto aumentato, quindi sulla possibilità che si tagli qualche cosa nelle spese per poter avere i voti repubblicani, e questo deve essere raggiunto in tempi anche soddisfacenti per il mercato. È un momento favorevole per lui, sul piano della sua immagine, deve saperlo sfruttare. Dunque, sulla politica e la lotta al terrorismo, voi avete un capitolo del vostro libro in cui affrontate la questione dicendo che Obama è andato a scuola da W. Bush. Ecco, questo è un punto alquanto controverso, nel senso che alcuni dicono che in effetti è così, altri dicono di no. Ecco, qual è oggi, dopo questo successo, la vostra considerazione sul rapporto continuità Obama-Bush? Esiste sicuramente la continuità sul piano operativo, l'abbiamo visto, lui è molto deciso nel perseguire terroristi, l'aveva promesso e l'ha fatto già con Bin Laden, sperabilmente lo farà anche con altri. Dove invece c'è il discorso strategico, perché in Siria, in Egitto, in Libia e in Iran non c'è il momento drammatico, non c'è la scelta di mandare Marines a sparare, ma c'è da fare politica e da fare guida, la sua strategia del guidare da di dietro finora non ha convinto gli alleati, non ha spaventato i nemici e non ha raccolto tanti consensi tra gli amici che ha nei paesi arabi. Ecco, Maria Teresa, comunque il presidente Obama in qualche modo è un uomo che è tornato a far sognare gli americani. Ha a questo punto, come dicono alcuni, la strada spianata verso la Casa Bianca del 2012? Ha tornato a farli sognare con un rilancio dell'eccezionalismo americano, che lui invece in altri discorsi aveva negato, ma ha ripreso nel discorso in cui ha annunciato la morte di Bin Laden, quando ha detto così il mondo vede che cosa è capace di fare l'America quando si mette in testa qualcosa. Invece non li sta ancora facendo sognare sul piano del business. Finché non ridà fiducia agli imprenditori, piccoli e grandi, sul futuro, finché non fa passare la paura di nuove tasse, di nuove regolamentazioni che freno appunto questi animal spirits, Obama non è sicuro di essere rieletto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il rapper Lil Wayne ha annunciato 40 nuove date per il suo prossimo tour che partirà il 13 luglio, subito dopo il debutto previsto per il 21 giugno del suo decimo album The Carter Four. E dunque di Lil Wayne ascoltiamo Right Above It. Was never said. Beautiful black woman, I bet that bitch look better red. Limping off tour cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr., 11th grade. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.